Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. L'autore e interprete Maurizio Rippa sul suo spettacolo Piccoli funerali di Maurizio Aloisio Rippa con Maurizio Aloisio Rippa alla voce, Amedeo Monda alla chitarra. A Roma, all'Angelo Mai, 24 e 25 settembre 2019. Maurizio, ben trovato. Ben trovati a tutti voi, ciao Federica. Ce lo descrivi? È uno spettacolo che è nato l'anno scorso dopo una chiacchierata con Alessandro Fabrizi del Teatro Ecologico di Stromboli, che partiva un po' da una mia esigenza del momento. È uno spettacolo che si può dire l'ho fatto quasi più per me che per gli altri. Un spettacolo che ha avuto, diciamo, una nascita da una mia esigenza di fare un po' le file, un po' su quello che è il mio modo di stare in scena e un poco anche di cercare di in qualche modo guarire da una serie di ferite che mi erano accadute, diciamo, nell'ultimo anno. Fondamentalmente avevo avuto delle perdite affettive, diciamo che i funerali che ci sono stati non avevano guarito, mi sembrava di non aver salutato bene queste persone e ho riflettuto molto proprio sul fatto che spessissimo sottovalutiamo questa cosa del salutare le persone quando perdiamo qualcuno. I funerali diventano delle formalità e poi dopo ognuno poi se le deve un po' gestire a modo suo il dolore, la sofferenza e il distacco. Il lavoro è nato appunto perché ho un po' avuto l'abitudine nella mia vita quando vado in scena di dedicare sempre il mio lavoro a qualcuno. E questo è partito perché, diciamo, io ho cominciato a fare teatro molto giovane per guarire, diciamo, da una mia timidezza molto forte. Mi piaceva molto fare le prove, eccetera, eccetera, però invece poi avevo difficoltà proprio andare in scena, mi prendeva l'ansia di prestazione, che ho cominciato invece a capire che potevo gestire se dedicavo il mio lavoro a qualcuno. Quindi ho preso l'abitudine che ogni volta che vado in scena dedico il mio lavoro a qualcuno a cui voglio bene, qualcuno che conosco, o anche una storia che ho letto, a volte anche un articolo di un giornale, a volte sono quei piccoli articoli di giornali dove ti racconto una storia particolare che ti colpisce, no? È un po' una tecnica, come quelli che si fanno il segno della croce prima di entrare oppure fanno dei riti scaramantici. Per me invece più che fare dei riti scaramantici era proprio un'idea di proiettare il mio lavoro verso qualcuno, verso qualcosa. Quindi unendo queste due cose mi è venuto in mente di fare proprio uno spettacolo dove io, avendo l'abitudine a dedicare, volevo proprio dedicarlo alle persone che avevo perso, ma anche a degli archetipi di persone che uno incontra nella vita e che in qualche modo un po' ci colpiscono o ci rappresentano. Quindi è nato questo progetto, insomma, partito fondamentalmente dopo la lettura di un libro di poesia di Franco Arminio, Cartolini dei morti. E quindi così è nato, diciamo, e così si è evoluto, perché è un progetto anche un po' in evoluzione continua. Lì a Stromboli c'era anche la musica insieme alle tue parole. E sarà così anche adesso negli sviluppi che ci sono stati? Assolutamente. In realtà i funerali sono proprio delle canzoni. Cioè io ho pensato che spesso sento dire tipo alla mia morte fate una festa, no? Vedete? Io ho sempre invece pensato che a me mi piacerebbe che qualcuno mi dedicasse una canzone, per esempio alla mia morte. E quindi, siccome io poi sono un cantante fondamentalmente, ho pensato che era il mio modo di salutare queste persone potesse essere una canzone che o sapevo che per quanto riguarda le persone proprio, come dire, di cui io non ho conosciuto e ho voluto bene, sapevo che quali erano le canzoni che mi piacevano, oppure quando si tratta di questi archetipi, di queste persone che poi non sono veramente esistite, ma che potrebbero essere esistite, ho immaginato una canzone che li potesse rappresentare o comunque accompagnare nel saluto. È una struttura molto semplice perché diciamo che sono sempre le persone in prima persona che parlano di se stesse e ti parlano proprio del momento della morte, del momento in cui sono andate via e a cui è abbinata una canzone. È una struttura estremamente semplice.

quasi in esclusiva una novità, perché abbiamo varato un programma di biglietti scontati che dà la possibilità agli under 25 di accedere alla maggior parte degli spettacoli. C'è un nome fantasioso per questo, titubavo, si chiama Young Bigliettino. Detto questo, sul sito e sui social c'è la possibilità di dare un'occhiata a chi volesse vedersi anche tutti e 70 giorni del festival. Noi partiamo il 17 all'auditorium con uno spettacolo abbastanza fuori dall'ordinario, perché non è un grandissimo nome, la prima volta che viene in Italia, Lia Rodriguez fa uno spettacolo che si chiama Furia Danza. Lei lavora tuttora nelle favela di Rio de Janeiro, e questo è uno spettacolo che abbiamo visto in Francia ed è veramente molto coinvolgente, non adatto a bambini della prima elementare, diciamo. Ecco, ci sono movimenti piuttosto energici, selvaggi, musiche della Nuova Caledonia e una serie di attori che non si risparmiano dall'inizio alla fine per far vedere qual è sia la realtà in cui vivono, perché molti di loro provengono proprio dalle favelas di Rio, sia che cosa vuol dire cercare di muoversi in un mondo sempre più complicato come quello odierno. Il giorno dopo invece il nome è famoso, si tratta di Akram Khan, parliamo sempre di danza naturalmente, che ritorna, il grande coreografo, per l'ultima volta in un assolo, e il tema è molto particolare, parla dei soldati coloniali indiani durante la guerra mondiale. Lui, che ha scoperto quanti, diciamo, soldati più o meno liberi di partecipare, di essere dentro l'esercito, sono morti per difendere l'Occidente. Su questa vicenda lui fa un evento, anche questo l'abbiamo visto in Francia, molto drammatico, molto che lascia abbastanza imperfetti per quanto non si risparmia sul palco. È una commissione di danza katak, danza contemporanea, le musiche sono firmate da un italiano, da Vincenzo Lamagna. Questo al Teatro Argentina, e parliamo del 18 settembre. Senza enumerarli tutti questi spettacoli che si succederanno, per poterli raccontare meglio c'è da dire che le sezioni interessanti di scoperta dedicate sono raggruppate in periodi specifici durante il festival, tra ottobre e novembre, e sono Dancing Days, la scoperta della nuova danza europea, i Kids, che sono dei weekend interamente dedicati ai ragazzi, ma vale la pena fare un salto, anche perché l'ingresso è libero, nell'enorme spazio antistante il luogo dove si svolgono gli spettacoli dedicati ai ragazzi, dove i bambini fino alla terza media possono giocare in maniera molto creativa, sono possibilità ludiche veramente straordinarie. Sia l'anno scorso che 2 anni fa c'era un entusiasmo incredibile, una fila enorme, abbiamo calcolato 10.000 bambini che si sono affollati al mattatoio, alla Pelanda per la precisione, per partecipare a questa manifestazione. È abbastanza una novità per Roma, non ci sono molti altri appuntamenti così concentrati, a parte i teatri dedicati ai ragazzi, che sono pochi comunque a Roma, una manifestazione di eventi internazionali per tutte le età, con un playground dove questi ragazzi possono giocare, possono sperimentare cose nuove, interattive e anche, diciamo, di tipo fisico, con movimenti, passi, labirinti che devono percorrere. Io lo trovo uno spazio veramente molto bello da questo punto di vista. C'è il Teatro Giovane Italiano, che anch'esso ha un suo spazio apposito dedicato, e poi sempre a ingresso libero una serie di installazioni, la maggior parte delle quali sono proprio al mattatoio, che è, diciamo, lo spazio dove forse si concentrano la maggior parte degli eventi. In particolare c'è un artista si chiama Pascal Martin Taillou, che ha partecipato a Kassel, alla Biennale di Venezia, eccetera, e ha conquistato il pubblico internazionale, il quale reinventerà proprio lo spazio intero del mattatoio a partire da un gigantesco murale all'ingresso, a Piazza dei Giustiniani si chiama, all'ingresso di questo enorme complesso, e proseguirà con una sorta di traiettoria disseminata di segnali, di opere, di installazioni fin dentro lo spazio. Insomma, in un giorno qualunque di questi 70 è il caso di farci un salto, abitando a Roma o venendo nella capitale per altri motivi. Ecco, detto proprio in breve, spero di essere stato abbastanza esaustivo e anche sintetico, perché davvero mi è difficile consigliare l'uno o l'altro degli spettacoli. Parlo solamente del gran finale. Il gran finale è un'intera giornata, il 24 novembre, la giornata di chiusura del festival, si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica, ma occuperà tutti gli spazi, dal Teatro Studio alla Sala Santa Cecilia. In particolare la Sala Santa Cecilia ospiterà Sakamoto al suo ritorno in Italia, credo dopo 10 anni o qualcosa del genere, che suonerà insieme ad Alba Noto, e ci ha confidato che farà un omaggio speciale a Bertolucci, che, con il quale ha fatto le musiche di diversi film, dedicandogli alcuni pezzi di quest'opera. Questo forse è uno degli appuntamenti più importanti del festival e direi anche della stagione musicale. Parlo sempre del 24 novembre, in questo caso alle 21:30, nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium. Ci lasci anche tutti i riferimenti web per la programmazione? romaeuropa.net, e poi sui social quotidianamente mettiamo dei remind su i vari appuntamenti. 34esima edizione del Roma Europa Festival in 20 spazi della città, dal 17 settembre al 24 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'ufficio stampa della rassegna, Massimo Pasquini. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, vi aspetto, a presto. Con Roberto D'Alessandro della quinta edizione del Festival Roma Comic Off in 10 teatri della capitale dal 10 al 29 settembre 2019. Roberto, ben trovato. Ben trovato a te Federico, buongiorno a tutti. Raccontiamo cos'è questo festival. Sì, il Comic Off non ha un vero sbarramento d'accesso alla partecipazione, nel senso che escludiamo solo gli spettacoli che siano razzisti, che siano, che offendano, come dire, la morale pubblica, che si facciano di pedofilia, queste robe qua, e per il resto accettiamo chiunque, basta che sia rigorosamente comico. Ecco, questa è l'unica dote che deve avere uno spettacolo per essere accettato. Mi sono inventato questo festival, poi grazie a Domenico Franceschelli lo gestisco ormai da 5 anni, perché è arrivata la quinta edizione. Quest'anno partecipano 10 teatri, sono più di 12 sale, più di 50 spettacoli, coinvolgiamo oramai migliaia di persone, ed è una kermesse che è attesa appunto a settembre, perché a settembre l'offerta culturale non è teatrale, non è grande, anzi non c'è quasi nulla, e quindi diventa un appuntamento interessante. Come era cominciato tutto? È cominciato tutto quando sono andato ad Avignone un bel po' di anni fa, e ho visto quanto era bello questo festival, quanto è bello andare per teatri, là ci sono centinaia di spettacoli nel mese di giugno, sarebbe bello realizzare la stessa cosa. Certo, Roma è un po' più dispersiva rispetto a quella cosa, ma potrebbe ospitare migliaia di spettacoli. Certo, bisognerebbe fare degli investimenti, forse ci devono anche delle idee che non mi sono ancora venute. In 5 anni il festival si è standardizzato, ma non avendo avuto grosse spinte non riesco a farlo crescere per come vorrei. Però è solo al quinto anno, forse ci vuole semplicemente un po' di pazienza. Un bilancio delle altre 4 edizioni cosa ci dice?

ma parlo di 18 anni fa, quindi insomma tanta roba. Abbiamo iniziato così con la voglia di portare il teatro nei luoghi dove il teatro non c'è e probabilmente non ci arriverà mai, e quindi nella fattispecie nelle periferie. Abbiamo iniziato da San Basilio, dal Tufello, poi a un certo punto siamo approdati a Pietralata, e a Pietralata abbiamo trovato una situazione molto interessante, perché c'è una sorta di anfiteatro all'interno di queste palazzine popolari che vengono chiamate il Colosseo di Pietralata, perché se qualcuno avesse voglia di fare un giro in aereo vedrebbe dall'alto che le palazzine sono state costruite proprio a forma di Colosseo, e quindi abbiamo detto: beh, quale occasione migliore se non quella di portare il teatro e la musica in un posto del genere, e così è stato. Insomma. Come si svilupperà questa edizione? Quest'anno abbiamo un programma veramente succulento. Iniziamo con Lucilla Galeazzi, che come al solito è la nostra madrina di festival, che ci regala un concerto insieme a Stefania Placidi in cui ci racconta la resistenza a partire dalle storie della sua famiglia. Quindi un racconto familiare, però anche generale, quindi insomma che riguarda la storia di tutti noi. Poi il 15, che è domenica, abbiamo i Radicanto, che ormai sono un gruppo che ospitiamo spesso e col quale facciamo anche degli scambi, che presenta il nuovo disco Le Indie di Quaggiù. E anche loro ci danno un bel panorama, perché Le Indie di Quaggiù già ti dà l'idea di che cosa stiamo parlando, cioè quanta immigrazione italiana c'è stata e quanto noi abbiamo esplorato i mari a partire dal Mediterraneo fino ad andare poi appunto negli oceani e in terre anche più lontane a cercare fortuna. E quindi appunto un bel viaggio. La settimana successiva, perché noi lavoriamo sempre sabato e domenica, la compagnia del Naufragar Me Dolce regala invece un suo vecchissimo spettacolo, perché parliamo di uno spettacolo che abbiamo scritto con Tiziana Scrocca, io e Tiziana Scrocca, qualcosa come 16 anni fa, che si intitola Pesci fuor d'acqua, ed è la storia di due barboni, due outsider, due reietti della storia della città, che vivono al bordo di un fiume e cercano di capire qual è il modo per aiutare questa umanità di quelli di lassù, di quelli che non guardano più il mondo in maniera amorevole, ma non fanno altro che correre e inseguire soldi, successo e potere, senza occuparsi più dell'uomo, della terra, dei valori, insomma, e allora si arrovellano per capire come aiutare questi esseri così sconsolati, così tristi, e si appassionano poi a un tema civile che poi è quello che probabilmente veramente caratterizzerà e sta già caratterizzando le guerre attuali e le prossime future, che è il tema dell'acqua, perché l'acqua è un bisogno, è un diritto, ma qualcuno ha cominciato a dire che è un bisogno e quindi va commercializzata, e tutto ciò è antitetico alla vita, perché l'acqua è vita e quindi senza acqua non si può vivere. E quindi vabbè, insomma, una storia donchisciottesca sul problema mondiale dell'acqua, anche divertente, insomma, ci abbiamo messo dentro veramente tante cose, una bella storia di amicizia, di ideali, sì, proprio due donchisciotte. Poi passiamo a domenica 22, sempre io e Tiziana Sprocca saremo accompagnate da Giuseppe Detrizio e questa volta Reis. Saïs canterà le sue canzoni e noi intrecciamo dei racconti sempre con questo filo rosso, no? Che è le resistenze che vogliamo raccontare, quindi non solo quelle storiche ma anche quelle odierne, quelle attuali, e diciamo che è anche un po' un elogio alla bellezza. Infatti facciamo anche una citazione di Peppino Impastato, perché effettivamente bisogna rieducare le persone alla bellezza, perché senza la bellezza non si può andare avanti, non si può sopravvivere, si è semplicemente degli automi senza vita. E invece la bellezza è importante, e questo tra l'altro è uno dei motivi per i quali noi continuiamo a portare il teatro in periferia, il teatro in luoghi dove il teatro non c'è e non ci sarà mai. E quindi insomma resistenza è un po' il fulcro, il centro del festival di quest'anno. Poi chiudiamo l'ultima settimana di settembre, sabato 28 abbiamo un meraviglioso concerto di Caffè Loti, quindi avremo Nando Citarella, Stefano Saletti, Tadayon, che ci offrono il nuovo disco di Caffè Loti, che è un bellissimo progetto di musica popolare. E contemporaneamente quel giorno abbiamo come ospiti Movimento Comico, che è una compagnia di teatro clown che ormai collabora con da noi da anni, e quindi si ride, si riflette, si gode della musica. E chiudiamo la nostra rassegna domenica 29 con un meraviglioso concerto di tamburi giapponesi di Rita Superbi. Quindi direi che è un programma come dire succulentissimo, chiaramente non mancano le occasioni per il pubblico di partecipare attivamente, quindi abbiamo laboratorio di canto popolare domenica 15, un laboratorio di danze popolari internazionali domenica 22. Tra l'altro il laboratorio di danze quest'anno come novità ci offre anche un'esibizione, quindi non avremo solo l'opportunità di partecipare attivamente e imparare magari una danza, ma poi anche di vederla eseguita da chi queste cose le sa fare. Quindi insomma io invito il pubblico a venire a trovarci a Via Bombicci, dove tra l'altro non è neanche così difficile arrivare, perché basta prendere la metro, scendere alla stazione della metro B di Pietralata, lì o si fa una passeggiata di 10 minuti oppure si prende il primo autobus che percorre via di Pietralata, e a un certo punto vedrete i nostri castelli, c'è una traversa, si chiama Via Fabiani, che sbuca proprio su Via Bombicci, quindi è molto molto facile. Poi se venite in macchina c'è anche il parcheggio. Ottava edizione della rassegna Agorà, teatro e musica alle radici, dal titolo Resistenze, a Largo Bombicci a Roma dal 14 al 29 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Chiara Casarico, della compagnia teatrale Il Naufragar Me Dolce. Chiara, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie e credo il lupo. Grazie, ciao. Con Valeria Sassanelli, una delle curatrici della mostra Beyond Triumphs and Laments al Teatro Valle a Roma dal 19 settembre al 20 ottobre 2019. Valeria, ben trovata. Eccoci, buongiorno. Ci racconti? Sì, è una mostra in cui Deve l'Eterno, insieme al Teatro di Roma e al Teatro Argentina, abbiamo immaginato per lanciare, diciamo, quello che noi abbiamo immaginato come associazione Deve l'Eterno per il futuro di quando sarà svanita l'opera di William Kentridge. Quindi cosa succederà a Piazza Tevere, cioè lo del tratto del fiume dove adesso si trova l'opera che è stata inaugurata nel 2016, e con l'idea di un futuro, di un effimero permanente, cioè della possibilità che nuovi artisti possano immaginare nuove immagini sempre sullo stesso tema dei trionfi e delle sconfitte, sempre sullo stesso meraviglione. Quindi sempre con una nuova identità, però sempre dello stesso luogo di Pozza d'Evere, che noi abbiamo, diciamo, immaginato grazie a una dei fondatori, Kristin Jones, che è un'artista americana, già dal 2004, quando la nostra associazione è stata fondata. Ci parli un po' dell'esperienza Tevere Eterno? Sì, Tevere Eterno nasce, è un'associazione Onlus, nel 2004, con un obiettivo molto specifico: immaginare di riqualificare le sponde del Tevere e riportare i romani a riconquistare questo spazio pubblico, che però purtroppo a tutt'oggi è semi abbandonato, è piuttosto degradato. Però questo l'associazione lo immagina attraverso eventi culturali, la realizzazione di eventi culturali e soprattutto le installazioni artistiche site specific. Chiaramente questa del 2013 del maestro William Kentridge è stata, diciamo, quella che ha riscosso maggiore successo, perché è un'opera incredibile, lunga 500 metri, però la tecnica è stata immaginata da Kristin Jones nel 2005, quando fece la prima opera sullo stesso muraglione, con la stessa tecnica, dove rappresentò 12 lupe romane gigantesche riprese dall'iconografia della lupa romana. E da allora ogni anno è stata fatta un'installazione artistica site specific. Quindi, diciamo, c'è già stato una sorta di ritorno, no, all'uso di questo muraglione come uno schermo sensibile, però usando appunto la tecnica della pulitura con acqua, quindi una cosa assolutamente naturale, ma anche allo stesso tempo effimera, come sono tutte le installazioni che noi realizziamo su quello spazio del fiume che è tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini. Esiste, avete fatto un'archiviazione digitale o un catalogo? Dunque, noi abbiamo fatto di volta in volta delle pubblicazioni specifiche degli eventi, ovviamente un'archiviazione esiste, abbiamo anche in programma in futuro di fare effettivamente una pubblicazione più ampia, perché tra le installazioni artistiche più importanti e invece le attività più quotidiane, cioè quelle di coinvolgimento degli studenti delle scuole romane, quelle di azioni più sociali, di eventi come la rassegna dei racconti di trionfi e lamenti, dove ci sono per esempio illustri personaggi di varie discipline, da scrittori, poeti, ad archeologi, ad ambientalisti, che vengono davanti al fregio a raccontare una parte della storia della città, prendendo spunto appunto dalle immagini del fregio. Diciamo, la ricchezza e la varietà delle cose che Tevere Eterno ha fatto appunto dal 2005 ad oggi è vasta, quindi sicuramente questa cosa avverrà. Per ora molte delle cose che ti sto dicendo sono sul nostro sito tevereterno.org. La mostra di quante opere si compone? Dunque, la mostra si compone di una installazione molto bella di due videoartisti giovani, Brinchi e Spanò, che si troveranno proprio nella sala teatrale del Teatro Valle, che come sappiamo al momento, per questioni di adeguamento strutturale, in adeguamento alle norme per la fruizione del pubblico, non può essere utilizzato come teatro. Quindi questa sala molto bella è utilizzata come spazio espositivo. Quindi ci sarà un'installazione dedicata alla loro interpretazione del fregio di Kentridge, mentre nel foyer, nell'ingresso, ci sarà una serie di, ci saranno dei video e dei pannelli che rappresenteranno un po' la storia, l'excursus della storia della nostra associazione. Ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni e i dettagli? Le informazioni sulle attività di Tevere Eterno e anche su questa mostra sono sul nostro sito www.tevereterno.org, tutto attaccato con una sola E in mezzo. Ovviamente anche sul sito del Teatro Argentina, sulla pagina Facebook di Tevere Eterno, che si chiama Tevere Eterno, e sulla pagina Facebook del Teatro Argentina. Poi chi vuole può iscriversi anche alla nostra newsletter. Tra l'altro ti volevo anticipare che proprio in questo arco di tempo in cui ci sarà la mostra, al pubblico sarà aperta dal 19 settembre al 20 ottobre, il 6 di ottobre, una domenica mattina alle 12, ci sarà un evento proprio sul fiume che terminerà a Piazza Tevere, una passeggiata con il poeta Gabriele Tinti e l'attore Cekas, che rappresenteranno delle poesie scritte dal poeta, riguarderà l'Apollo del Tevere, che è una statua che fu ritrovata sull'isola Tiberina. Quindi inizierà di fronte all'isola Tiberina e terminerà davanti al fregio di Kentridge, di fronte alla figura di Apollo e Daphne di Bernini, disegnata da Kentridge, e poi verrà anche questo farà parte, diciamo, di questo evento, di questa mostra, e verrà inserito anche poi all'interno della mostra a partire dai giorni successivi. Ricordiamo la mostra Beyond Triumphs and Laments al Teatro Valle a Roma dal 19 settembre al 20 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Valeria Sassanelli di Tevere Eterno, che è una delle curatrici. Valeria, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a te, a risentirci e arrivederci a tutti. E ora la settimana teatrale romana con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Pomeriggio a tutti quanti, come va? Ebbene, grazie. Nel senso che non c'è un pubblico che mi può rispondere nell'immediato, però io posso in qualche modo anticipare un po' le risposte. Bene, bene, anche perché è una bellissima settimana teatrale, Federico, quindi insomma possiamo raccogliere un po' di cose piccole o grandi, insomma, che è il caso sicuramente di segnalare. Allora, io direi che posso partire dalla nuova edizione di Restart, il festival dell'associazione Da Sud, che è la quinta edizione. Alla quinta edizione si chiama Muro contro Muro, festival della creatività antimafia e dei diritti, e sarà nell'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, appunto sulla Togliatti, in Tuscolano, dal 26 al 28 settembre, e la manifestazione prende mossa dal trentennale quest'anno della caduta del muro di Berlino, per parlare un po', diciamo, del tema della separazione, dell'odio, del razzismo, dei muri, no? Dei vecchi e nuovi muri che in qualche modo separano le culture e quindi non permettono crescita e contaminazione. È una edizione nobile, insomma, assolutamente, ci saranno ospiti importanti, così come Marco da Milano, Giovanni Minoli, Pippo Civati, Matteo Orfini, quindi diciamo anche Sandro Veronesi, la politica, il giornalismo, la letteratura, che si ritrovano. E ci sarà, appunto, tra i tanti eventi, una mostra che si chiama 1989, raccoglie le illustrazioni di Henning Wagenbrecht, che è le storie brevi a firma di 10 scrittori europei, tra cui appunto l'unico italiano Andrea Camilleri. Seguono appunto spettacoli, dibattiti, talk, incontri e concerti live. Maria Antonietta presenterà in concerto Sette ragazzi imperdonabili, la performance talk del rapper filosofo Murubuto, e infine Emilio Stella, cantautore romano, insomma, chiuderà un po' la manifestazione. Quindi un bel po' di cosette all'Accademia Popolare dei Diritti e dell'Antimafia, anche un evento interessante dedicato a Leonardo Sciascia, per chi ne fosse, insomma, perché ne volesse ricordare un po' l'opera, e da segnalare che tutto quanto è ingresso gratuito, ingresso libero con la tessera appunto dell'associazione. Quindi, ripeto, 26-28 settembre, muro contro muro, Restart all'Accademia dei Diritti e dell'Antimafia dei Diritti. Poi, allora, ti direi che possiamo andare, vediamo, all'India, perché parlando di contaminazioni, no, impedite o meno tra i muri che vengono eretti sui confini, proprio contaminazioni si chiama il festival autogestito dall'Accademia Silvio D'Amico, con i 25 spettacoli di ingresso gratuito e tante altre attività attorno, 24 ormai, perché insomma è cominciato ieri sera, il 23, fino al 29 di settembre, per vedere un po' proprio come riescono a declinare gli allievi dell'Accademia Silvio D'Amico la creazione teatrale sulla base dell'idea, insomma, che la contaminazione tra linguaggi e tra culture diverse sia un po' il futuro di questo nostro mondo. Quindi fino al 29 di settembre Teatro India, contaminazioni, 25 spettacoli, appunto, ricordo, tutti a ingresso gratuito. Ti porto poi a Cometa Off, perché dal 27 al 29 di settembre ci sarà Crit Clock di Giovanni Limbeccio. Siamo a Palermo. Costantino è un personaggio che viene dalla Palermo, bene, per lui è tutto facile, passa sopra tantissime cose. Jolly è invece un giudice che lo farà un po' riflettere sul suo ruolo e sul suo modello di vita. Quindi questo al Cometa Off 27-29 settembre. Ti porto anche questa settimana al Piccolo Liceo, perché il prestagione porta a Roma Nerds, Sintomi di Bruno Fornasari, spettacolo che da molti anni gira soprattutto per il nord italiano, dove segna tanti Tutto Esaurito, e arriva a Roma, credo in realtà ci sia già stato, però insomma è a Roma 26-29 settembre. Si tratta di una commedia brillante e sofisticate in cui ridere bene, e il tema sarà quello della famiglia tradizionale. Ci sono quattro fratelli, quindi quattro stili di vita per come intendere, no? Poi la famiglia, come gestire la propria famiglia. Poi, allora, tra l'altro Tor Bella Monaca torna Daniele Parisi 26-28 ottobre con Invilup, siamo di notte, un uomo sotto un portone inizia il suo monologo e cerca di domandarsi, insomma, qual è la varia umanità, quali sono gli esempi della vita che si trova davanti in quel momento tra chi passa e chi immagina stia passando. È uno spettacolo molto interessante dove si ride e però insomma si riflette molto. Mi ricordo un po', diciamo, per citare le nostre conoscenze, un po', diciamo, la falsariga dello stile di scrittura di Eleonora Danco. Daniele Parisi è un attore, autore, regista in grande crescita. Come attore segnalo, io ho appena visto al film, al cinema, il film di Duccio Chiarini, di cui è protagonista insieme a Silvia D'Amico, si tratta di L'Ospite, che è ancora nelle sale romane per queste prossime settimane, visto che insomma è andato abbastanza bene. E mi fa piacere poterlo segnalare perché è davvero un film notevole. Parlavo appunto di esemplari, di una sorta di vita di uomini illustri, e allora al Carrozzeria Notte 26-28 di settembre c'è Massimiliano Civica che porta i suoi scampoli, aneddoti, pensieri su vari personaggi che hanno attraversato il Novecento e che Massimiliano Civica ha conosciuto oppure ha conosciuto tramite la loro opera, insomma parliamo di Robert Mitchum, Andrea Camilleri o che so, Edoardo De Filippo, ma anche Roberto Rossellini, insomma personaggi che sono stati illustri, e è il caso di andare a vedere un po' attraverso l'aneddotica della loro vita esemplare, come vengono poi cuciti all'interno di una drammaturgia da Massimiliano Civica, che appunto ne racconterà dal 26 al 28 di settembre al Teatro delle Carrozzerie Notte. Vi segnalo anche che all'Angelo Mai, 24 e 25, quindi stasera e domani, è l'occasione per rivedere un piccolo lavoro molto delicato di Maurizio Ripa con Amedeo Mondo alla chitarra, e si tratta di Piccoli Funerali, un rituale funebre che prende le mosse dall'antologia Spur River di Edgar Lee Masters e anche dalle cartoline dei morti di Franco Arminio, ed è un lavoro che ha a che vedere molto con la voce. Ricordiamo Maurizio Ripa è un cantante d'opera che spesso si esibisce in teatro. Ultime due cose che ricordo: sabato al Teatro Biblioteca Quarticciolo ci sarà La Teoria del Cracker, che è un lavoro di Daniele Aureli, Occhi sul Mondo, e la compagnia di Perugia, un lavoro che si segnala per la grande riflessione attorno al tema delle morti d'amianto e ciò che accade insomma durante il periodo di malattia ai personaggi di questo piccolo paese. Un lavoro molto delicato, come sapevo di vedere ormai due stagioni fa, perché arriva a Roma in data unica, purtroppo, lavoro che abbiamo anche premiato della critica al premio Dante Cappelletti sotto teatro, e quindi mi fa piacere poterlo segnalare con cura. Ultimissima cosa è la settimana di Roma Europa Festival, e sì, arriva la danza, torna la danza, perché insomma ha già aperto la scorsa settimana all'Auditorium con Bruno Beltrao, Inoa è questo lavoro 25 e 26 appunto nella sala dell'Auditorium, questo incrocio di cultura urbana contemporanea che porta l'hip hop all'interno della danza contemporanea, molto interessante. Io non ho ancora avuto modo di vedere Bruno Beltrao, ma mi segnalano, diciamo, i nostri colleghi di danza che si tratti di un lavoro particolarmente interessante. I due lavori che invece Roma Europa porta al Teatro Argentina hanno a che vedere prima di tutto con Il Grande, Intorno a Roma, ormai soltanto la sera, e domani Miro Rau, artista svizzero belga, che porta la sua Orestein Mosul, che parte proprio da un lavoro di ricerca molto interessante, insomma il titolo più o meno dovrebbe darci idea, e ambienta l'Orestea all'interno del contesto di guerra contro l'ISIS, della situazione siriana irachena e dal trattamento riservato ai reduci jihadisti. Lo spettacolo è costruito nella caserma di combattenti Peshmerga in Kurdistan, nella piazza centrale di Mosul, e insomma coinvolge non soltanto i militanti chiamati in causa, ma anche poi i cittadini del luogo, quindi una sorta di teatro tribunale che ha già fatto parlare molto di sé, e quindi mi fa piacere poterlo segnalare, è davvero un po' lo spettacolo della settimana. in ordine di tempo, in realtà, perché 27 e 29 di settembre, quindi il weekend, c'è l'occasione per Opening Night, ed è questo lavoro firmato con Isabella Ciani addirittura, che va a recuperare una vecchia storia del cinema, ossia quando John Cassavetes, per costruire appunto la sua Opening Night, ambienta nel teatro di Pasadena una vera e propria pièce sul momento, con appunto Gina Rowlands, che sarà poi protagonista del film, del 77. La pièce si chiama The Second Woman, e qui Steve Stent cercherà di far rivivere insieme agli spettatori di oggi un po' quella in cui il grande John Cassavetes è riuscito a tenere un film che vale per la storia del cinema. Questo, Federico, è tutto. Un abbraccio, alla prossima. Ciao Simone. Ciao a tutti. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.